imprigionate la natia libertà di questo crimine. Un portento d'amore in voi celate. Andronico Asenio, ed italiano, il guerrier germano, ed Ilio Castamando, lingue e voci omicide, chiudo tre pinte stoie in sembianza di Iole. Ai, ma dolcite! Ma rise il primo incontro, amica sorte, non sol negar, ma questo si pesa me funesta, e più chiaro seren di due pupille mi fate me mille.